E arrivi e passi proprio dietro di me. Le tue paure le hai descritte, non le riconosco. Se invece passi lieve vicino a me, le tue paure ora le sento, ora le capisco. Senti parole da dentro, parole che hanno forma di spettri che adesso costringono il tuo corpo a restarsene fermo. Ti prendono la gola ordinando il silenzio. Parole che hanno scelto di usare il tuo tempo, sfruttando l'emozione che segna il tuo volto. Se vuoi scacciare prendi un respiro profondo e adesso grida forte in faccia a me. Mi fondi l'anima, mi spieghi come faccio. Se affondi il meglio che ho, mi chiedi il vizio è più di prima. Arrivi e passi proprio dietro di me, ma quante volte ormai l'hai fatto? Proprio non capisco. Se mi vuoi credere decidi per te, qui il tempo passa e più non torna, usa il tuo talento. Senti parole da dentro, parole che hanno forma di spettri che adesso costringono il tuo corpo a restarsene fermo. Ti prendono la gola ordinando il silenzio. Parole che hanno scelto di usare il tuo tempo, sfruttando l'emozione che segna il tuo volto. Se vuoi scacciare prendi un respiro profondo e adesso grida fuori.